campionati che cominciano a mercati ancora aperti, questa la trovo una follia, certo, assoluta. Questa è una delle cose giuste che ha detto Mourinho in questa settimana. Ha detto: non è, mi sembra assurdo che il mercato sia aperto quando abbiamo già cominciato la stagione. Insomma, lì ha ragione lui, perché vuol dire, cosa ci vuole cominciare 10 giorni prima, 20 giorni prima, e farlo finire il 10 certo, agosto, l'8? Certo. Mi sembra di dire questo 31 agosto molto, molto da sorpasso, no? Molto da film anni 60. Il 31 agosto, ormai l'estate non si sa più quando è, com'è, no? Perché dobbiamo mantenere questa data così, un po', no? Come il 25 dicembre, sì. Così, simbolica. Qui in Italia alle ore 19, non so in Spagna. Sai che non lo so, te lo dico sinceramente. Però insomma, in Inghilterra so che è un po' più tardi, ma insomma dipende anche lì, ognuno fa un po' come gli pare. Sì, no? Ognuno fa come gli pare, e resta una pagliacciata comunque quella di far chiudere il mercato quando la palla già corre.